Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Yasin. Yasin. والقرآن الحكيم. Per il saggio Corano. إنك لمن المرسلين. In verità tu sei uno degli inviati. على صراط مستقيم. Su una retta via. تنزيل العزيز الرحيم. Rivelazione del potente, il misericordioso. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Affinché tu avverta un popolo i cui avi non sono stati avvertiti e che dunque sono incuranti. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Già si è realizzato il decreto contro la maggior parte di loro. Non crederanno. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sì, porremo ai loro colli giochi che saliranno fino al mento, saranno irrigiditi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. E metteremo una barriera davanti a loro e una barriera dietro di loro. Poi li avvilupperemo affinché non vedano niente. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Che tu li avverta oppure no, per loro sarà la stessa cosa. Non crederanno. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. In verità avvertirai solo colui che segue il monito e teme il compassionevole in ciò che è invisibile. Annunciagli il perdono e generosa ricompensa. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. In verità siamo noi a ridare la vita ai morti. Registriamo quello che hanno fatto e le conseguenze dei loro atti. Abbiamo enumerato tutte le cose in un archetipo esplicito. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Proponi loro la metafora degli abitanti della città quando vi giunsero gli inviati. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Quando gliene inviammo due, essi li trattarono da bugiardi. Mandammo loro il rinforzo di un terzo. Dissero: In verità siamo stati inviati a voi. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Risposero: Non siete altro che uomini come noi. Il compassionevole non ha rivelato nulla. Non siete altro che dei bugiardi. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Dissero: Il nostro Signore sa che in verità siamo stati inviati a voi. وما علينا إلا البلاغ المبين. Con il solo obbligo della comunicazione esplicita. قالوا إنا تطيرنا بكم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Dissero: Siete di malaugurio. Se non desistete, vi lapideremo e vi faremo subire un severo castigo. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Risposero: Il malaugurio è su di voi. È così che vi comportate quando siete esortati? Siete gente perversa. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Da un estremo della città giunse correndo un uomo. Disse: O popol mio, seguite gli inviati. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Seguite coloro che non vi chiedono alcuna ricompensa e che sono ben diretti. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Perché mai non dovrei adorare colui che mi ha creato e al quale sarete tutti ricondotti? أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. Mi prenderò altre divinità all'infuori di lui? Se il compassionevole volesse del male per me, la loro intercessione non mi gioverebbe in alcunché, né saprebbero salvarmi. Inni idhal lafi dhalalin mubin. Sarei allora nell'errore evidente. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. In verità credo nel vostro Signore, ascoltatemi dunque. Qila adkhuli al-janna. Qala ya layta qaumi ya'lamun. Gli fu detto: Entra nel paradiso. Disse: Se la mia gente sapesse. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Come mi ha perdonato il mio Signore e mi ha posto tra coloro che sono onorati. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. Dopo di lui, non facemmo scendere dal cielo nessuna armata. Non abbiamo voluto far scendere nulla sul suo popolo. In كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Non ci fu altro che il grido, uno solo, e furono spenti. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. O miseria sui servi di Allah, non giunge loro un messaggero che essi non scherniscano. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. Non hanno visto quante generazioni abbiamo fatto perire prima di loro? Esse non torneranno mai più sulla terra. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. E saranno tutti quanti obbligati a presentarsi davanti a noi. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا. Ecco un segno per loro, la terra morta a cui ridiamo la vita e dalla quale facciamo uscire il grano che mangiate. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Abbiamo posto su di essa giardini di palmeti e vigne e vi abbiamo fatto sgorgare le fonti. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Affinché mangiassero i suoi frutti e quel che le loro mani non hanno procurato, non saranno riconoscenti? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Gloria a colui che ha creato le specie di tutto quello che la terra fa crescere, di loro stessi e di ciò che neppure conoscono. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. È un segno per loro la notte che spogliamo del giorno e da allora sono nelle tenebre. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. È il sole che corre verso la sua dimora. Questo è il decreto dell'eccelso, del sapiente. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. E alla luna abbiamo assegnato le fasi finché non diventa come una palma invecchiata. La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Non sta al sole raggiungere la luna e neppure alla notte sopravanzare il giorno. Ciascuno vaga nella sua orbita. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. È un segno per loro che portammo la loro progenie su di un vascello stracarico. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. E per loro ne creiamo di simili sui quali si imbarcano. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Se volessimo, li annegheremmo e allora non avrebbero alcun soccorso e non sarebbero salvati. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Se non da una nostra misericordia e come temporaneo godimento. Wa idha qila lahum اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Quando si dice loro, temete ciò che vi sta dinanzi e quello che è dietro di voi, affinché possiate essere oggetto di misericordia. وما تأتيهم من آية من آيات رب بهم إلا كانوا عنها معرضين. Non giunge loro un solo segno tra i segni del loro Signore senza che se ne distolgano. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. E quando si dice loro siate generosi di ciò che Allah vi ha concesso. I miscredenti dicono ai credenti, dovremmo nutrire chi sarebbe nutrito da Allah se lui lo volesse? Siete in evidente errore. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E dicono, quando si realizzerà questa promessa, se siete veridici? Ma ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Non aspettano altro che un grido, uno solo, che li afferrerà mentre saranno in piena polemica. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. E non potranno dunque fare testamento e neppure ritornare alle loro famiglie. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Sarà soffiato nel corno, ed ecco che dalle tombe si precipiteranno verso il loro Signore. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Dicendo, guai a noi, chi ci ha destato dalle nostre tombe? È quello che il compassionevole aveva promesso. Gli inviati avevano detto il vero. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna muhdarun. Sarà solo un grido, uno solo. E tutti saranno condotti davanti a noi. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E in quel giorno nessuno subirà un torto e non sarete compensati se non per quello che avrete fatto. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. In quel giorno i compagni del paradiso avranno gioiosa occupazione. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Essi e le loro spose, distesi all'ombra su alti letti. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Colà avranno frutta e tutto ciò che desidereranno. Salamun qawlan min rabbir rahim. E pace sarà il saluto rivolto loro da un Signore misericordioso. Wamtazu al-yawma ayyuha al-mujrimun. E sarà detto: tenetevi in disparte in quel giorno, o iniqui. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan. Innahu lakum 'aduwwun mubin. O figli di Adamo, non vi ho forse comandato di non adorare Satana? In verità è un vostro nemico dichiarato. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. E di adorare me? Questa è la retta via. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Egli ha sviato molti di voi, non comprendete dunque? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Ecco l'inferno che vi è stato promesso. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Bruciate in esso quest'oggi, poiché siete stati miscredenti. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. In quel giorno sigilleremo le loro bocche, parleranno invece le loro mani e le loro gambe daranno testimonianza di quello che avranno fatto. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. E se volessimo, cancelleremmo i loro occhi e si precipiterebbero allora sul sentiero. Ma come potrebbero vedere? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. E se volessimo, li pietrificheremmo sul posto e non saprebbero né avanzare né ritornare indietro. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Noi incurviamo la statura di tutti coloro ai quali concediamo una lunga vita. Non capiscono ancora? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Non gli abbiamo insegnato la poesia, non è cosa che gli si addice. Questa rivelazione non è che un monito e un Corano chiarissimo. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Affinché avverta ogni vivente e si realizzi il decreto contro i miscredenti. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Non hanno visto che tra ciò che abbiamo creato per loro con le nostre mani c'è il bestiame che essi possiedono? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Lo abbiamo sottomesso a loro, di alcuni fanno cavalcature e di altri si nutrono. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. E ne traggono benefici e bevanda. Non saranno dunque riconoscenti? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Si prendono divinità all'infuori di Allah, nella speranza di essere soccorsi. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Esse non potranno soccorrerli, saranno anzi un'armata schierata contro di loro. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Non ti affliggano i loro discorsi. Noi ben conosciamo quello che celano e quello che palesano. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Non vede l'uomo che lo abbiamo creato da una goccia di sperma? Ed eccolo in spudorata polemica. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Ci propone un luogo comune e dimentico della sua creazione dice chi ridarà la vita ad ossa polverizzate. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Di, colui che l'ha creata la prima volta ridarà loro la vita. Egli conosce perfettamente ogni creazione. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Egli è colui che nell'albero verde ha posto per voi un fuoco con cui accendete. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Colui che ha creato i cieli e la terra non sarebbe capace di creare loro simili? Invece sì, egli è il creatore incessante, il sapiente. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Quando vuole una cosa, il suo ordine consiste nel dire sì, ed essa è. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Gloria a colui nella cui mano c'è la sovranità su ogni cosa, colui al quale sarete ricondotti.